Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera. Questa sera rieditiamo un po' la visione di Indiana Jones, andiamo alla ricerca di qualcosa di perduto, andiamo alla ricerca della banca perduta e lo facciamo con Marco Onado. Buonasera, professor Onado. Buonasera a voi. Marco Onado, professore senior di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano, è stato commissario Consob, collabora con Il Sole 24 Ore, con La Voce.info e ha scritto per Il Mulino alla ricerca della banca perduta, un'analisi del sistema finanziario, soprattutto negli ultimi anni, dalla crisi finanziaria in poi, un sistema finanziario appunto in grandi difficoltà in cui le banche sono profondamente cambiate. Questo titolo a Indiana Jones, professor Onado, come mai? Perché la banca, appunto, come diceva lei, è profondamente cambiata nel corso di qualche decennio, praticamente senza che ce ne accorgessimo. E la banca, come la descriviamo nei libri di testo, che attenta allo sviluppo, alla crescita delle imprese, eccetera, si è trasformata, ha subito una sorta di mutamento genetico e quindi è diventata, o meglio, il sistema finanziario nel suo complesso, è diventato un mostro che partorisce crisi e non solo contribuisce poco allo sviluppo, ma crea delle condizioni per cui non riusciamo più a far ripartire l'economia, perché non dimentichiamoci che la crisi ormai è entrata nel suo decimo anno di storia e che è vero che c'è qualche segnale di ripresa, però è un altro mondo rispetto a prima. Ecco, ma sono state le stesse banche a provocare la crisi. In fondo la crisi è nata almeno come elemento principale dal fallimento di Lehman Brothers nel 2008, quindi dal fallimento del sistema finanziario americano, un sistema finanziario che era peraltro cambiato negli ultimi anni attraverso una deregolamentazione, attraverso l'illusione di poter fare i soldi con i soldi. Quindi le banche sono state nello stesso tempo protagoniste e vittima della crisi? Direi che no, non era parte delle vittime, erano dalla parte del colpevole, insomma. No? alcune di esse sono state puramente vittime, però la grande banca in generale, la grande banca di investimento è l'imputato principale del processo, se vogliamo, a chi ha generato la crisi. Per due motivi fondamentali. Uno è quello che accennava lei, cioè il fatto di questa estrema propensione ad attività puramente speculative che non producono affatto ricchezza generale. Ma un altro, più sottile, che è quello che riguarda la crisi europea, che si è generato una grande corsa al debito che ci ha lasciato tutti con un debito da pagare largamente insostenibile, imprese e settore pubblico intendo, e che non ha generato, peraltro non ha neppure generato ricchezza, è stata una grande misallocazione di risorse. Il boom edilizio dell'Irlanda, della Spagna, in qualche misura anche dell'Italia, spiega infatti questo una buona parte delle crisi di banche italiane. Questo boom qui è stato un boom della banca tradizionale, ma è stato altrettanto deleterio di quello della finanza rampante. Certo, quindi c'è innestato in pratica un circolo vizioso per cui le banche hanno finanziato in maniera, diciamo, impropria anche un'economia reale che era un'economia illusoria, fondata su una domanda illusoria, che l'economia reale poi è andata in crisi, andando in crisi non ha ripagato i crediti che avevano avuto dalle banche, quindi le banche sono ritrovate in difficoltà e in questo senso poi gli stati hanno dovuto intervenire anche pesantemente con dei grandi finanziamenti. E anche l'Italia, dopo aver in fondo resistito, ha dovuto entrare anche con direttamente nelle banche, direttamente a ricapitalizzare le banche in difficoltà. Certo, e questa è la prova provata che c'è anche una crisi della banca tradizionale, perché sicuramente le nostre banche non hanno avuto gli eccessi delle grandi banche di investimento americane o anche di certe banche europee che stanno in piedi tra mille sospetti, penso a Deutsche Bank, certo, per non fare i nomi naturalmente. Ecco, ma in questa prospettiva ci sono due elementi che il libro mette bene in risalto. Uno è l'effetto dei derivati, di questa finanza speculativa che qualcuno ha considerato un'arma di distruzione di massa, e l'altro è l'aspetto del gigantismo bancario. Vediamolo un po' separatamente. I derivati sono veramente un'arma di distruzione di massa, Marco Onado? L'espressione di uno di sopra di ogni sospetto, Warren Buffett, che ha sbagliato pochi affari nella sua vita, insomma, quindi la prendiamo col rispetto dovuto alla persona. Io lo paragonerei all'energia atomica, che può produrre centinaia di applicazioni benefiche, però basta pensare, certo, alla cronache di questi giorni, certo, genera sempre il rischio è che un dottor Stranamore si innamori della bomba e la voglia usare a sproposito, no? Certo. Ecco, sull'altro fronte, quello del gigantismo, forse andare verso banche sempre più grandi, le cosiddette banche troppo grandi per fallire, non è un errore di politica economica, di politica finanziaria? Esattamente, questo è un problema, ed è un problema che nessuno in questo momento vuole, non dico risolvere, ma neppure affrontare. Nel libro cito i dati di organismi internazionali che dimostrano che il sistema bancario è cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni, e tutta la crescita è imputabile alle grandi banche. Cioè c'è stata una corsa al gigantismo che ovviamente si sta togliendo spazio a banche di carattere tradizionale che erano fatto della vicinanza alla loro clientela, certo, il loro elemento di forza. Certo. Ecco, quindi in questa prospettiva forse anche l'ipotesi che in Italia è molto spesso sostenuta di fusioni tra le banche, certamente hanno avuto un effetto positivo in molti casi che hanno risolto dei problemi di piccole banche, però anche le banche del territorio hanno una loro funzione. Assolutamente sì, diciamo che una serie di elementi contingenti dell'emergenza costringe a ricorrere a fusioni perché è il modo più indolore per risolvere i tanti, troppi problemi di banche locali che abbiamo sotto gli occhi. Però è un problema che si rifletterà a lungo termine sull'efficienza del sistema bancario italiano, a mio parere. Ecco, questo sì, che avremo bisogno di un sistema bancario efficiente, in grado di competere, di sostenere anche un'industria che ha bisogno di crescere. E il professor Onado, il libro si conclude con un capitolo, con un punto di domanda: e adesso, povero risparmiatore, noi dobbiamo essere comunque ottimisti e costruttivi per contratto, che cosa possiamo sperare che possa succedere in un sistema bancario come il nostro, che ha tanti difetti, però comunque complessivamente è un sistema che ha tenuto, che ha retto anche alle malefatte di qualche banchiere? Sì, ha retto, è un dato indubbio, peraltro le malefatte di qualche banchiere sono un po' tante e un po' troppo diffuse nel territorio, il Veneto, la Toscana, la Liguria, e via elencando. Questo credo, ripeto, che abbia portato a una distruzione di valori che si rifletterà nel lungo termine. Detto questo, non vedo grandi e drammatici pericoli per il povero risparmiatore, che dovrà essere sempre più capace di difendersi anche con la propria testa e il proprio cervello, perché insomma le banche hanno sempre un po' questo problema, questo conflitto di interessi di dover vendere tanti prodotti e possibilmente i prodotti fatti in casa che non sono necessariamente quelli più adatti. Certo. Quindi insomma l'educazione finanziaria, la scelta di prodotti di risparmio gestito che sono più riparati dai conflitti di interessi può essere la strada migliore. Voglio dire, abbiamo avuto dei casi drammatici, addirittura che hanno portato al suicidio di qualche risparmiatore. Dietro c'erano delle scelte molto rischiose, insomma, in cui una gran parte notevole del risparmio era stato investito in un unico titolo. Certo. Il grande Mark Twain aveva detto: sono due alternative, o non mettete tutte le uova in un solo cestino, oppure le mettete in un solo cestino e lo guardate molto attentamente. Ecco, anche perché bisogna stare attenti quando si parla di strumenti di rischio, strumenti finanziari di rischio. Il rischio in fondo ha un problema che ogni tanto si verifica, ogni tanto avviene, quindi parlare di rischio vuol dire assumersi anche la possibilità che certe cose anche avverse possano succedere, quindi andare con i piedi di piombo, diversificare indubbiamente, fidarsi anche degli esperti, ma fino a un certo punto, perché anche gli esperti poi possono avere dei conflitti di interesse. Comunque, concludendo, professor Onato, alla ricerca della banca perduta ne avremo ancora da raccontare a lungo. Assolutamente, assolutamente. E infatti Harrison Ford ci ha campato per 30 anni. E quindi anche questo, parleremo ancora di banche, speriamo di poterne parlare in modo positivo. Grazie a Marco Nardo di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del suo libro Alla ricerca della banca perduta, edito dal Mulino, sono 280 pagine per 15 euro. Grazie anche a Filippo Aureggi in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. grazie e buona serata.